la legge Zan, che ha fatto un primo passaggio perché è stata approvata alla Camera, estende i reati legati alla violenza, normati quindi dalla legge Mancino, oltre che all'identità etnica, di religione nazionale, anche all'identità di genere e all'orientamento sessuale. Quindi è un prendere atto della rilevanza sociale, della gravità sociale della violenza nei confronti delle persone LGBT, quindi considera anche l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Allora, è un prendere atto. Io sono stata anche audita nella Camera prima del dibattito, durante il dibattito che ha preceduto appunto l'approvazione della legge, per portare, come dire, i dati delle ricerche che segnalano proprio quanto le discriminazioni nei confronti delle persone LGBT sono diffuse. Ce lo segnala ad esempio l'Istat, che ha fatto una ricerca nel 2012, ce lo segnala una ricerca recente del 2020 dell'Agenzia dell'Unione Europea sui diritti fondamentali, che ci dice che un 60% di persone dello stesso sesso non prende, di persone gay e lesbiche, non prende per mano il proprio partner pubblicamente per paura di reazioni. E questa stessa ricerca ci dà un ulteriore dato importante, perché ci dice che una minoranza di persone, un 19% di persone che subiscono violenza sulla base della loro identità di genere o sulla base del loro orientamento sessuale, di fatto denuncia, quindi uno spazio sociale che viene percepito come uno spazio non sicuro. Quindi da qui l'importanza della legge Zan. E cito ancora un dato che sottolinea proprio l'urgenza anche di avere una legge in questo senso. Ogni anno l'ILGA, che è un'associazione internazionale in difesa e in tutela dei diritti LGBT, fa una sorta di mappa, in qualche modo misura la temperatura dell'inclusione a livello europeo con tutta una serie di parametri, da 0 a 100, 0 non c'è inclusione, 100 c'è la massima inclusione. Bene, l'Italia raggiunge un punteggio, quindi una temperatura di inclusione, che è un 23%, molto distante da altri paesi europei come la Francia, che ha un 56%, o dalla Spagna, che ha un 67%, per invece allineare i paesi dell'est, ad esempio la Lituania, che ha anch'essa un 23%. E questo perché? Perché tra diciamo, i vari dati mancava proprio una legge contro i crimini d'odio, quindi questa legge riempie un vuoto. In più è una legge che va anche a occuparsi di misoginia, no? Quindi in qualche modo traccia proprio anche una connessione tra quella che sono le violenze nei confronti delle persone LGBT e l'odio nei confronti delle donne, in qualche modo. Infatti le volevo proprio chiedere, perché sarà questo il punto centrale, il focus del seminario che si terrà oggi pomeriggio all'interno del festival La Violenza Illustrata. Appunto, quali sono le somiglianze e le differenze? Sono effettivamente due facce della stessa medaglia? Sì, allora c'è un punto di connessione tra questi due fenomeni, la violenza nei confronti delle donne e la violenza nei confronti delle persone LGBT, che è la costruzione culturale del genere, della femminilità e della femminilità, concepite come due categorie dicotomiche, binarie, opposte, complementari. Quindi è su questo che occorre appunto andare ad agire, quindi non solo opposte, ma anche concepite con una gerarchia diversa, no? Dove la femminilità è concepita come qualcosa che è sottostante, che non ha lo stesso valore della maschilità. Pensiamo ad esempio all'idea di possesso delle donne, che viene poi messo bene in evidenza dal fenomeno del femminicidio, no? Quindi questa impossibilità di lasciare andare qualche cosa, uso proprio questa parola, no? Un oggetto, qualche cosa che è ritenuto proprio, ma anche all'impossibilità, all'incapacità, no? Di alcuni maschi proprio di elaborare poi le emozioni dell'ansia, della paura abbandonica, della gelosia. E questo ha a che fare, riguarda proprio la costruzione del genere, cioè come i maschi in particolare vengono socializzati al genere. Che cosa significa essere maschi? Significa ad esempio dover espellere tutte quelle emozioni ritenute femminili, come ad esempio appunto la paura, la vulnerabilità. Dove in qualche modo a livello culturale per i maschi è rintracciata una sola possibilità di vivere, no? In qualche modo la propria fragilità, cioè con la rabbia. Così anche ad esempio nell'omosessualità maschile è concepita come la negazione, no? Della maschilità. Ecco, quindi tutto questo ci fa riflettere proprio sul fatto che la violenza nei confronti delle donne, così come l'homo, l'elbo di trans negatività, io preferisco questa parola perché riguarda proprio i processi culturali, non tanto gli individui, ha a che fare proprio con, ad esempio, con gli stereotipi di genere, sugli stereotipi di genere, quindi come veniamo socializzati al genere. Ed è su questo che quindi occorre anche ad andare a agire, come ad esempio a scuola, no? Dando la possibilità ad esempio alle insegnanti, alle educatrici, agli educatori, di riflettere su come si parla, su come si tratta il tema del genere, su come si veicola attraverso il linguaggio, attraverso i comportamenti, proprio per dare l'opportunità di costruire, di creare una cultura che possa mettere sullo stesso piano maschilità e femminilità in maniera appunto, in termini diciamo di eguaglianza, di uguali opportunità.